quanto tempo è passato da quel giorno d'autunno di un ottobre avanzato con il cielo già bruno fra sessioni di esami, giorni persi in pigrizia, giovanili ciarpami. Arrivò la notizia, ci prese come un pugno, ci gelò di sconforto sapere a brutto grugno che Guevara era morto. In quel giorno d'ottobre in terra boliviana era tradito e perso Ernesto Che Guevara. Si offuscarono i libri, si rabbuiò la stanza, perché con lui era morta una nostra speranza. Erano gli anni fatati di miti cantati e di contestazioni, erano i giorni passati a discutere a tessere le belle illusioni. Che Guevara era morto, ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva. Che Guevara era morto, ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva. Passarono stagioni, ma continuammo ancora a mangiare illusioni e verità a ogni ora. Anni di ogni scoperta, anni senza rimpianti, forza compagni allerta, si deve andare avanti. E avanti andammo sempre con le nostre bandiere, intonandole tutte quelle nostre chimere. In un giorno d'ottobre in terra boliviana con 100 colpi è morto Ernesto Che Guevara. Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa che Che Guevara è morto, mai più ritornerà. Ma qualcosa cambiava, finirono i giorni di quelle emozioni e rialzarono la testa i nemici di sempre contro le ribellioni. Che Guevara era morto e ognuno lo capiva, che un eroe si perdeva e qualcosa finiva. Che Guevara era morto e ognuno lo capiva, che un eroe si perdeva e qualcosa finiva. E qualcosa negli anni terminò per davvero, cozzando contro gli inganni del vivere giornaliero. I compagni di un giorno, o partiti o venduti, sembra si giri attorno a pochi sopravvissuti. Proprio per quest'ora io vorrei ascoltare una voce che ancora incominci a cantare. In un giorno d'ottobre in terra boliviana con 100 colpi è morto Ernesto Che Guevara. Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa che Che Guevara è morto, forse non tornerà. Ma voi reazionari tremate, non sono finite le rivoluzioni, e voi stesse prigioni, a qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il cielo tornerà. A qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il cielo tornerà.